Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oh Venezia, regina del mare, non c'è città che possa paragonare la tua bellezza. Vista dal mare, sembri un sogno di fata morgana. Fosti nata da umil capanne, mai onore e maestà. Questa poesia è stata scritta quando il nostro protagonista aveva solo 9 anni e lui non è diventato un poeta, non è diventato uno scrittore. Secondo quanto racconta, la sua prima magia è stata proprio nascere nella sua città, cioè Venezia, perché stiamo parlando di magie e di maghi. Parliamo di quello che diventerà per tutti solo Silvan, ma che all'anagrafe si chiama Aldo Savoldello. Nasce nel 37 nel sestriere di Santa Croce, in un palazzetto del Settecento, nella casa che fu dello scrittore Gasparo Gozzi, fratello di Carlo. Una casa che per molti è stata considerata infestata dagli spiriti. Per questo il padre di Aldo riesce a prenderla in affitto a un prezzo accettabile e lì abiterà con tutta la sua famiglia. Insomma, è una casa molto popolata dove lui cresce in armonia, imparando a nuotare nel canale vicino a casa. Erano altri tempi, evidentemente. E l'avvicinamento alla magia avviene a 7 anni. Per la prima volta lui vede l'esibizione di un prestigiatore dilettante a Crespano del Grappa durante le vacanze estive. Nel corso di una serata in trattoria, il mago chiama un bambino, gli dice di farsi avanti, di partecipare. Aldo non ci pensa due volte, si lancia e appena si avvicina al prestigiatore viene avvolto dagli applausi dei presenti. Non ha ancora fatto nulla, ma quel rumore per lui è musica. Viene inebriato da quel senso che ti dà l'applauso che ti circonda. È un suono che lui ancora ama. Il mago mi chiese di contare delle monetine nel palmo della mano e di chiudere il pugno. Erano 10. Mi chiese di togliermene 3 contandole a una su un vassoio di metallo. Eseguì e gliele consegnai. Le mise in tasca. «Ora chiudi le mani», mi disse. «Vuoi che dalla mia tasca queste 3 tornino nel tuo pugno invisibilmente?» «Bene», disse lui. Lo guardavo attonito, con gli occhi spalancati, e stringevo il pugno così forte che ormai era diventato rosso. «Ora, quante monete credi di avere in mano?» 7, dissi, ostentando la mia abilità con il calcolo mentale. Lui prese un vassoio di metallo e mi chiese di contarle. Aprì le mani e iniziai. 1, 2, 3... E man mano che le contavo l'emozione saliva. 6, 7... Era qualcosa di incredibile. 8, 9, 10... Rimasi a bocca aperta. Quello è il momento della vita di Aldo in cui viene colpito in modo definitivo dal Bacillus Magicus, come lo definisce lui nella sua autobiografia La magia della vita. Rientrato dalle vacanze, lui sa cosa vuole. Appena ha qualche soldino, va in giro per le bancarelle a comprare libri che parlino di magia di ogni genere e legge tutto. Legge volumi di illusionismo, occultismo, ipnotismo. Per quanto siano letture difficili, lui si convince di cosa vuole diventare da grande. Da grande farò il mago. Il papà di Aldo fa il capo della polizia lagunare a Venezia e per lui sogna una carriera da avvocato. All'inizio non dà retta alle aspirazioni di quel figlio un po' tra le nuvole, poi capisce che però lui è determinato, non riesce a darsene pace. Per 3 volte, racconterà poi Aldo, il padre arrivò al punto di bruciargli le sue amatissime valigie colme di giochi magici. Neanche questo lo fa desistere. A 11 anni si esibisce in pubblico davanti alla platea del suo oratorio, l'oratorio Don Bosco di Venezia, e si dà il primo nome d'arte. Adesso si chiama Mago Saghibù. In effetti la stessa Bibbia è fonte di ispirazione. È un libro che racconta molti prodigi. A catechismo Don Oreste gli parla del bastone di Aronne che si tramuta in serpente, del rovetto ardente che non si consuma. Queste storie lo affascinano talmente tanto che a casa ci ripensa, mette alla prova se stesso con quello che ha a disposizione. Intanto legge il Corriere dei Piccoli, come tutti i bambini di quella generazione, cerca di mettere in pratica i giochi di prestigio che spiega il giornalino, poi li arricchisce, li migliora. Più avanti, una decina d'anni più tardi, avrebbe collaborato lui stesso al Corriere dei Piccoli con una rubrica magica che si chiamava La polvere del pirimpimpin. Il falco. e il gabbiano. Quindi Aldo Savoldello, che non è ancora conosciuto nel mondo con il suo, quello che diventerà il suo nome d'arte, cioè Silvan, è folgorato da un prestigiatore dilettante a 7 anni. La magia entra nella sua vita, non lo lascerà più. A 11 anni fece uno spettacolo di 4 ore e mezzo. Ricordo un numero. Dentro un cilindro c'erano dei bigliettini su cui erano scritti dei nomi di città. Invitavo i preti presenti a prenderne uno e appoggiarlo sulla loro fronte. Poi scandivo: Catanzaro! E la mamma di Aldo, ex infermiera, una donna mite e religiosa, lo iscrive alla Compagnia dei Piccoli, che è un gruppo con finalità benefiche composto da bambini delle scuole elementari con la predisposizione per il canto, il ballo, la recitazione. E quindi, insomma, un mago nel gruppo fa comodo. E così eccolo il nostro eroe comparire sul palco sfoggiando baffi dipinti sopra le labbra, un cappello a cilindro di panno blu in testa, nella sua migliore imitazione di Mandrake. Quindi parte da piccolo cercando di invecchiarsi, esattamente il contrario di quello che farà poi nella terza parte della sua vita. I giochi con palline e bacchetta magica sono sempre quelli, li ha imparati dal Corriere dei Piccoli. Mago Sagibù, questo è il primo nome di Aldo. È un nome che nasce dalla fusione del suo cognome, cioè Savoldello, con quello di due persone che ammira. Uno si chiama Ranieri Bustelli, che è il più grande mago italiano del periodo prima della guerra, fino agli inizi degli anni 50, e l'altro è il professor Otello Ghigi, un illusionista ipnotizzatore veneziano da cui lui va spesso a vedere le esibizioni. Tornando da scuola, un giorno il piccolo maghetto veneziano viene chiamato per caso a esibirsi per strada. Ci sono le riprese di un film lungo un canale e il regista e gli attori sono in pausa. Come era abbastanza abituale vedere a Venezia dei gruppetti di persone che assistevano alle riprese di film, e quindi anche quel giorno noi ci fermammo, c'era questa troupe cinematografica e un signore conosceva mio padre, e quindi riconoscendomi in mezzo a questi bambini mi disse: Aldo, vieni qua, vieni anche che sono un maghetto qua, e si rivolse naturalmente questa enorme figura di uomo con passato carismatico, sembrava quasi un gigante negli occhi, e gli disse a lui in inglese, disse: guarda, questo ragazzino fa i giochi di prestigio, magic magician, I'm going to do some trick for you, you're going to be there. Oh, well, now, oh, good, yeah, good, ciao, come stai? E Silvan gli risponde: sto bene. Subito propone a quell'omone straniero, grande e grosso, con la voce tonante, uno dei suoi trucchi, quello della sparizione di una chiave. Lui lo guarda, lo applaude, gli chiede il bis, offrirà un gelato a tutti i bambini. Aldo si diverte, è onorato, non sa veramente chi ha davanti. Lo scoprirà 30 anni più tardi. Quell'uomo era Orson Welles, si trovava a Venezia per girare l'Otello. Coraggio, sì, uomo. Affogarsi, i gatti s'affogano e i cuccioli ciechi. Non può essere che Desdemona conservi a lungo il suo amore per il Moro o lui per lei. Troppo improvviso ne fu l'inizio. Vedrai che altrettanto rapida sarà la soluzione. Quando ha 14 anni si comincia a fare sul serio. Intanto indossa un frac vero comprato da un rigattiere con una gardenia all'occhiello che indossa ancora oggi, e poi sostituisce la scatola di cartone con una valigia dentro cui ha tutti i suoi attrezzi del mestiere, e molti glieli ha fatti il padre di un suo compagno che fa l'artigiano, poi anche un assistente che lo accompagna con le note della fisarmonica. Insomma, la sua carriera, la carriera del mago Sagibù è iniziata. Il padre gliele brucia 3 volte le scatole di cartone, ma poi capisce finalmente che lui non vuole diventare un mago, lui si sente un mago, e alla fine il ragazzo lascia il liceo, intraprende la carriera artistica. Il padre ne accetta la scelta: se fai il mestiere che ti piace, possiedi già metà della felicità che la vita ti riserva, gli dice finalmente, e negli anni diventa il suo primo fan. Il 29 aprile 1956, questo è il giorno del colpo d'ala, perché il fautore di quella svolta epocale è il papà del suo compagno di scuola, quello con cui aveva costruito i suoi primi giochi di prestigio. E infatti questo signore lo iscrive a sua insaputa a un concorso per dilettanti. La trasmissione si chiama Primo Applauso, è un concorso televisivo che direi un po' una specie di preistorico talent show. Va in onda su Rai 1, condotto da Silvana Pampanini, che a quei tempi è veramente un mito, e insieme a lei c'è anche un giovanissimo conduttore esordiente, Enzo Tortora. Lo spettacolo è proprio come oggi, ha una giuria formata da celebrità, e per quella serata inaugurale c'è anche il regista Vittorio De Sica. Anche il pubblico in sala può esprimere il suo giudizio con uno strumento che all'epoca era una vera e propria novità, cioè l'applausometro, peraltro nome che gli dà Enzo Tortora, ed è proprio lui che lo presenta alla platea. Sul palco esce un ragazzino coi capelli lucidi di brillantina, con un frac verde pisello, che naturalmente sullo schermo compare in bianco e nero, due mani grandi e veloci davanti a un tavolino, e sopra ci sono i vari oggetti che serviranno a incantare il pubblico. Lo racconta anche lui nel suo libro La magia della vita, edito da Mondadori. Alla fine della serata scoprii con mia enorme soddisfazione di aver ottenuto il massimo del punteggio. «Come hai detto che ti chiami?» mi domandò poi l'affascinante Silvana Pampanini. «Saghibù», ripetei orgoglioso. Lei sorrise. «Forse è un nome un po' troppo esotico per un ragazzo della tua età». La guardai confuso. Non avevo mai pensato di chiamarmi diversamente. «Io ho portato fortuna a molte persone. Perché non provi a prendere il mio nome? Togliendo la A finale potresti chiamarti Silvan». Silvan. Suona bene quel nome all'ormai ex mago Saghibù. Una lampadina che si accende nella sua mente intuisce come per magia quanto un nome così semplice, Silvan, possa diventare un nome a effetto, ottimo anche per i palcoscenici internazionali. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato un ragazzino con i capelli lucidi di brillantina che si esibisce alla serata inaugurale di Primo Applauso, un talent show ante litteram nel quale Silvana Pampanini, mitica conduttrice, gli consiglia un nuovo nome d'arte. Quindi questo ragazzino non sarà più il mago Saghibù, ma diventerà Silvan. È lei che gli consiglia il nome e gli porta fortuna. Lui vince la serata, la gente comincia a riconoscerlo per strada, a scritturarlo, lo invita ad altre trasmissioni TV. Siamo nel 56, la televisione c'è solo da 2 anni, la gavetta è ancora lunga da fare, ma chi va in televisione in quegli anni diventa subito famosissimo. Intanto lui viene scritturato in un teatro di rivista a Roma, è giovane, gli piacciono le donne, impara a apprezzare, insomma, l'importanza di quell'applauso a scena aperta che tutti noi cerchiamo per tutta la vita, la sincerità del pubblico. E come ogni grande artista, però, è umile, lavora sodo, presenta 3 numeri a serata, inizia a portare a casa, peraltro, dei soldi che fanno comodo, che fanno capire a quel padre che non credeva in lui che quello del mago può essere davvero un mestiere per la vita. E durante una delle tante serate arriva un impresario e gli propone di partecipare a una serata di beneficenza. In realtà, come sempre, le proposte per le serate di beneficenza sono 10 volte tanto le proposte per le serate normali. Comunque lui accetta, ed è un'altra fortuna, perché a questa serata di beneficenza che viene fatta a Parigi c'è Edith Piaf. Insomma, questo dà a Silvan una seconda chance di vita. Il successo in Italia è abbinato a un successo francese proprio nella capitale parigina. Viene ingaggiato al Sexy, che è un locale notturno molto alla moda. Il nome del locale, insomma, ti fa capire che genere di locale è. Siamo in una traversa dei Champs-Élysées. Lavora anche con impresari italiani e torna in Italia dopo il successo francese e si esibisce allo Smeraldo, altro teatro mitico a Milano. E poi c'è l'incontro con Pollock, che per Silvan è un mito, è un artista ineguagliabile, e questo gli dà una sferzata di energia, perché Pollock è un bell'uomo, si muove sul palco in modo silenzioso, ha molto stile, è serio, è concentrato, e quando parte la musica si sentono solo le ali delle sue colombe che poi lui trasforma in fazzoletti rossi. Insomma, è un uomo di carisma, non è solo un mago. Un suo numero al Pigalle di Londra viene ripreso anche in uno storico documentario del 58, Europa di notte, un documentario del grande Alessandro Blasetti. The night in London isn't so young anymore, but there's plenty of time left and a lot more to see. You'll have to try very hard, as the fair maiden is really fascinated by the magic of Channing Pollock. Il numero con le colombe è sempre suggestivo, è qualcosa di spettacolare. Quando lo stesso Channing Pollock lo consiglia a Sylvan, lui insomma capisce che quella può essere una grande strada, gli si illuminano gli occhi. E intanto le esibizioni aumentano, da Parigi si va a Tokyo, a teatri, casinò. Ovviamente il successo porta con sé anche un forte ascendente nei confronti del pubblico femminile, ma ce n'è una che vincerà su tutte le altre, il classico colpo di fulmine. Intanto siamo a Londra, è il 62, sta per esplodere il fenomeno dei Beatles e Mary Quant lancerà anche la minigonna, che Dio la benedica. E proprio a Londra Sylvan incontra una ragazza che a volte fa anche la modella, si chiama Irene, e lui non se la lascia scappare. E il primo fugace incontro è nella hall di un lussuoso albergo, ma lui la cerca disperatamente, finalmente la rintraccia. E non si lasceranno più. Nel 64 si sposano, 2 anni dopo nasce Sara Olga, la primogenita, che trascorrerà i primi anni assieme alla madre per tutti i camerini in giro per il mondo, viaggiando per treni, per navi, per aerei. E insomma, si gira tournée da tutte le parti. Poi arriva il momento di fermarsi e ovviamente Sylvan e la sua famiglia decidono di fermarsi in Italia. Nasce Stefano, il secondo figlio, che peraltro diventerà poi il regista dei suoi spettacoli teatrali. Inizia una nuova fase tutta italiana. E sarà proprio Irene, quella che non ha mai voluto apparire né in TV né nei suoi spettacoli, che avrà l'idea geniale, darà al marito il consiglio giusto: scrivere manuali, realizzare le scatole magiche, di cui si faranno 13 edizioni diverse. Da bambino mi sa che un paio me le sono fatte comprare anch'io, perché i bambini si appassionavano ai giochi di prestigio e Sylvan diventava un brand praticamente. E oggi i maghi, gli illusionisti, sono tutti figli di quelle scatole magiche. Uno di loro è Matteo Rampin, veneziano come Sylvan, psichiatra, psicoterapeuta, studioso di scienza dell'inganno, cultore di illusionismo. È l'autore di Pensare come un mago, edito da Ponte alle Grazie. L'incontro con il mago Sylvan avviene al Club Magico Italiano. Oh, beh, il primo incontro me lo ricordo sicuramente, perché ero ancora un ragazzino, avevo 12 anni e lo incontrai a Bologna in una di queste riunioni, e quello che mi colpì fu il fatto di vedere che lui si comportava dentro i corridoi dell'albergo dove c'era questa convention di maghi, si comportava esattamente come si comporta sulla scena, perché questo è lui, no? Nel tempo è diventato indistinguibile, lui è il mago sempre e comunque, quindi il suo gesticolare, la sua inflessione di voce, lo sguardo, la gestione degli spazi, la gestione dei tempi sono sempre permeati di magia anche al di fuori del palcoscenico. Questo lo rende unico. E dal punto di vista della crescita professionale, l'episodio italiano più significativo di quel periodo per Sylvan avviene nel 66. Viene chiamato dalla Rai per partecipare al programma Scala Reale, che era il programma canzonissima che quell'anno si chiamava così, era condotto dal grande Peppino De Filippo. Insomma, lui e la sua famiglia mettono le radici a Roma e intanto finalmente Sylvan Aldo decide di fare lezioni di guida, perché come spesso succede ai veneziani non aveva mai guidato, mai messo le mani su un volante. E poi torna a studiare, colleziona libri di magia, ne ha oltre 3500 nel suo studio. Insomma, tutto gira per il meglio. Sylvain propone alla Mondadori un suo libro di magia e nel 71 esce il suo primo titolo, Giochi di prestigio. Ne seguiranno molti altri e poi nasce la prima scatola magica di giochi. È chiamato a presentare premiazioni importanti, dalla Rai continuano ad arrivare proposte. Nel 71 Scala Reale torna a chiamarsi Canzonissima e lo chiamano. È condotta da Corrado e da Raffaella Carrà, che si presta a essere una delle sue vittime. Lui la fa levitare su tre scimitarre. Attenzione, pensa a qualche cosa di bello, qualche cosa di maestoso. Ecco, tu sei già rilassata, sei già rilassata. Ora tu stai cadendo. Tu stai cadendo. Tu stai cadendo. Cadi. Un'altra storica esibizione è quella di Loretta Goggi, che si presta a essere vivisezionata da Sylvain. È un numero, anche questo, molto famoso. Tre parti in diretta. Gli spettatori davanti allo schermo sono 18 milioni e lei sta al gioco, è bravissima. Per non dare adito al pubblico di pensare al trucco televisivo, come ripeto, tu dovresti mettere il piedino fuori, là, e far vedere al pubblico il piedino. Vabbè, qui, ecco, sì. Là, il piedino, brava. Muovi il piedino, muovi il piedino. Ecco il piedino. Io la ho paura, mano, eh. La mano destra, qui dentro, qui, fallo uscire. Dov'è? Qui la mano, brava. Oh. Brava, ecco. Bello, impressionante, eh? Attenzione, questo armadietto è alto 1,85 m e queste sono lame d'acciaio dalla larghezza di 45 centimetri. No, attenzione. Silvia, non scherzare, dai. Silenzio. Maestro, qui ci divertiamo al Teatro della Vittoria. Maestro Simonetti, per cortesia, una musica di atmosfera. Va bene? Silenzio, per cortesia. Ah, no, ma che fai? Lui col suo charme, con la sua voce suadente, con la sua eleganza, conquista gli italiani. I tempi sono maturi per un programma tutto suo. Così in TV compare al giovedì sera Sim Sala Bim. È una frase che diventerà mitica e verrà riproposta anche qualche anno più tardi, quel programma. Va ora in onda a colori lo spettacolo Sim Sala Bim, presentato da Sylvain. Sim Sala Bim. E il fulcro dello show e di tutta la sua vita è sempre la magia. Passano gli anni eppure lui continua a essere sulla cresta dell'onda. Nel 90 e nel 99 viene eletto Magician of the Year e continua a fare tournée, a salire sui palcoscenici di tutto il mondo, perché Sylvain ha un grande merito: ha fatto conoscere, apprezzare la magia a un pubblico straordinariamente vasto, ha nobilitato la figura del mago, ne ha alzato la percezione, l'ha allontanata dallo stereotipo dell'illusionista vecchio stampo, quello che ti faceva sparire il portafogli. È diventato il numero di Sylvain, è diventato una, come dire, una esibizione artistica. Peraltro lui è uno che ha le mani assicurate per 3 milioni di euro e lo capisco. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala o un colpo di colombe, come Sylvain. Hanno volato in alto, hanno lasciato un segno e lui ci è riuscito, come tutti, avrà avuto cadute e risalite, ma noi lo abbiamo solo visto e continuiamo a vederlo impeccabile nel suo smoking a farci sognare. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi sui miei social, Facebook, Twitter, sui nostri social, insomma, se volete, sapete dove sono. Ciao, a domani.